È uscito lo scorso 30 settembre Vesuvia, l'ultimo lavoro discografico dell'autrice, cantante e produttrice Meg. Per parlare di questo suo ultimo progetto siamo in collegamento telefonico con Meg, a cui do il benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao Meg, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio Adele. Per iniziare vorrei un po' chiederti di raccontarci la nascita di Vesuvia. Già dal titolo si intuisce un legame tra l'album e le tue origini. Di che cosa parla Vesuvia e come si articola un po' questo legame? Io sono nata in un paesone schiacciato tra il vulcano e il mare. Si chiama Torre del Greco. Il Vesuvio è sempre stato un po' un totem per tutta la mia infanzia. Mi ha sempre comunicato un senso di familiarità, un senso di casa, un senso di protezione, ma allo stesso tempo anche tutto il contrario, cioè un senso di precarietà, la paura del pericolo di un'eruzione che potesse farmi perdere tutto ciò che mi era caro. Mi piaceva quindi immaginare che questo disco fosse scritto da una certa Vesuvia. Mi piaceva declinare il nome del vulcano al femminile, immaginare una donna, un alter ego, la vera autrice di questo album, e che invece di eruttare morte e distruzione producesse pentagrammi di lava, note fatte di scintille, e che la sua lingua di fuoco facesse danzare chiunque la ascolti. Le 12 tracce che compongono l'album hanno dei testi ricchi di metafore e quello che hai appena detto è anche un po' l'esempio. C'è un legame con la poesia nel tuo lavoro? Ci sono delle poetesse o dei poeti che ti hanno ispirata per questo? Ho mangiato pane e poesia per tutta la mia giovinezza. Senza poesia si vive una vita molto triste e quindi ecco, la poesia è sempre arrivata in certi momenti a salvarmi. In qualche modo le canzoni sono un po' come delle poesie in musica, perché come le poesie devono in qualche modo riassumere in poco tempo delle visioni, delle emozioni, degli stati d'animo, e devi farlo in brevissimo tempo, in piccolissimo spazio, con delle parole che riescano a trasportarti in determinati mondi emotivi, interiori. Quindi io spero che in questo disco ci sia della poesia, me lo auguro. In questo periodo ho letto molto le poesie di Chandra Candiani. Mi piace molto il suo modo apparentemente semplice di creare delle immagini. Mi piace molto il suo contatto costante, mai interrotto, con la natura. La natura in questo disco secondo me c'è molto, è molto prepotente la sua presenza, forse dovuta a questa presenza anche al fatto che dopo questi 2 anni e mezzo di pandemia non ancora finita, leggevo oggi un articolo sul fatto che parliamo di post traumatic stress da pandemia, ma in realtà lo stress è ancora presente, non è ancora passato, quindi forse non si può parlare di post traumatic stress, ma di uno stress che c'è ancora e quindi di traumi che sono presenti, non sono ancora elaborabili in qualche modo. Dicevo però, in questi anni così difficili, spesso la natura mi ha salvato, cioè poi stando rinchiusi, a maggior ragione, soprattutto se si è in una città con i vari lockdown che ci sono stati, questo senso di alienazione, e sono riuscita in qualche modo a lenirlo solo ed esclusivamente quando mi immergevo nella natura, e quindi il mio elemento preferito è il mare, ovviamente, cioè la terapia per me migliore è sempre quella dell'andare al mare, però anche i boschi sono estremamente terapeutici, il verde in generale è una cosa che ti calma, ti fa sentire piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, no? Ti fa ricordare che sei parte di un tutto molto più grande di te. Meg, ti faccio un'ultima domanda, questa volta un po' più specifica, su una delle tracce, quella che personalmente mi ha anche un po' colpita di più, Aquila, che racconta di sorellanza. Come articoleresti questo concetto? Ma io ho delle amiche carissime che sono come sorelle per me e sono rapporti preziosissimi, anche qui salvifici. Spesso sono amiche molto diverse da me, che hanno dei tratti molto molto diversi dal mio carattere, ma proprio per questo sono di grandissima ispirazione. Io mi ispiro molto alle mie amiche per essere una persona migliore o per avere in qualche modo, in certi momenti di difficoltà, un perno a cui appoggiarmi, una forza in più a cui aggrapparmi. E quindi ho scritto questo pezzo sulla sorellanza e mi piaceva l'idea di cantarlo insieme a due sorelle, due voci di donne speciali, molto diverse tra di loro, molto diverse da me, che sono appunto Emma e Lisa. Emma ha una voce più fatta di fuoco, terra, no? Roccia, ed Elisa invece ha una voce più poetica, insomma, se devo usare un elemento penso all'acqua, una voce liquida o aerea. Mi sono fatto questo trip, mi sono immaginata noi tre come se fossimo tre streghe buone che si incontrano di notte in una foresta intorno al fuoco e si incontrano per raccontarsi, per in una specie di rituale sacro dell'amicizia, piangono, ridono, si riconoscono nonostante siano così diverse tra loro, e forse proprio perché così diverse tra loro si arricchiscono. Quindi mi piaceva, a parte che sono stata molto grata a Emma e Elisa per aver accettato l'invito in maniera così calorosa ed entusiasta, ma mi piace che in questo pezzo le nostre tre voci si fondano per diventare un coro, un tutt'uno, quasi non le distingui l'una dall'altra. Era la cosa che mi premeva. Sorelle. Meg, io ti ringrazio di questa chiacchierata e un in bocca al lupo anche per tutto il resto. Grazie. Grazie a te, Adele. Un abbraccio.